La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Il marketing della liberazione. La pubblicità ha sempre promesso le stesse cose: benessere, felicità, successo. Ha venduto sogni e proposto scorciatoie simboliche per una rapida ascesa sociale. Ha fabbricato desideri raccontando un mondo di eterne vacanze, sorridente e spensierato. La pubblicità ha venduto di tutto, a tutte e a tutti, indistintamente, come se la società fosse senza classi. Oggi ha mutato pelle, oggi ogni prodotto, dalla macchina alle scarpe, passando per le bibite e altro, tutto è presentato come un elemento distintivo per una gioventù ribelle. Ci sono pubblicità che vogliono ridare il potere al popolo, altre che vogliono sovvertire le leggi del mercato, tutte inneggiano alla rivoluzione. Oggi la cultura commerciale è ribelle. La rivoluzione passa attraverso le scarpe che porti, la bibita che bevi. Il nuovo, solo perché è tale, è rivoluzionario e come tale il comprarlo e l'usarlo sostituiscono le pratiche di lotta. Il meccanismo è semplice. Si identifica una convenzione sociale che non mette in discussione lo status quo, né i rapporti di classe, né la società. La si distruttura e grazie a questa destrutturazione le ditte vendono e la società rimane sempre la stessa. Ci si appassiona per un messaggio pubblicitario irriverente. Non si racconta che serve solo a vendere, moltiplicarle le possibilità di essere chiacchierati e quindi di vedere accresciuto il messaggio pubblicitario stesso. La sconfitta della lotta di classe in questo paese e la dimensione buonista, tra virgolette, conservatrice della sinistra socialdemocratica hanno schiuso ai pubblicitari le porte delle nicchie culturali che erano proprie della sinistra e il cui carisma e la cui forza evocativa vengono ora utilizzati per altri scopi. C'è la ditta che lotta contro il razzismo, quella che si presenta come il simbolo del non conformismo, l'altra della rivolta adolescenziale e ancora quella della rivoluzione sessuale. Le marche ormai hanno sostituito i movimenti. Siamo al trionfo del marketing e della liberazione. La ribellione per alcune e alcune è una protesi identitaria. Questa epidemia di ribellione non impressiona né il capitale né le sue articolazioni repressive. Non contenti, tutte e tutti questi e queste ribelli si autorappresentano come scomodi per questa società e si definiscono disubbidienti. L'esibizione è divenuta un meccanismo del capitalismo mediatico. Tutto si risolve nelle paté, le bourgeois. Dobbiamo avere chiavi di lettura per distinguere tutti costoro dai veri ribelli disubbidienti e scomodi? Non ce n'è bisogno, perché questo già lo fa per noi la borghesia. Quelli di cui abbiamo parlato hanno i riflettori puntati su di loro, se ne parla, vengono intervistati e intervistate, vengono ospitati di qua e di là. Gli altri, quelli o le altre che lo sono veramente, sono avvolti dal silenzio, dall'oblio e quando esagerano vengono stigmatizzati, demonizzati e repressi e represse. L'impegno politico, le vetrine infrante, sarebbero frutto di frustrazioni sessuali. L'impegno delle donne in politica, tanto più se antisistemico, sarebbe il frutto di sconfitte sentimentali. La ribellione alle ingiustizie sociali, accompagnata dalla lotta di classe, troverebbe spiegazione per tutti costoro in qualche ormone mancante o in eccesso. A chi teorizza e pratica la lotta armata, secondo questa lettura, sarebbero mancate le ammucchiate e il sesso trasgressivo. Secondo questa filosofia, per liberarci da questa società dobbiamo andare a mangiare nei ristoranti etnici, acquistare nei negozi ecosolidali, comprare i dischi dell'ultimo cantante di successo e magari aderire a questa o quella lettura della sessualità e delle pratiche esistenziali, presentate come liberatorie e rivoluzionarie. Il trionfo del capitale. Rabbia, insoddisfazione e ricerca di altro li ha saputi mettere al servizio dei propri interessi, creando un bisogno di identificazione con nuovi stereotipi culturali. Il capitale, attraverso la pubblicità, riesce a riplasmare la società reale, la realtà sociale, secondo una visione immaginaria della società. I giovani disoccupati delle periferie urbane impersonano una sorta di lotta tra una marca di scarpe e l'altra. Pubblicità, stereotipi culturali vincenti diventano uno strumento di trasformazione della coscienza sociale. Donne e uomini che nei messaggi pubblicitari e nelle rappresentazioni mediatiche vediamo senza distinzione gerarchica, al lavoro e a casa e magari nelle nuove inclinazioni sessuali, in realtà nascondono la fine del lavoro a tempo indeterminato, l'apologia della precarietà, il rilancio dei ruoli. Le aziende che vivono sfruttando il lavoro minorile e producono materiali bellici o distruggono l'ambiente nei paesi del terzo mondo, omettendo bellamente tutto ciò, si rappresentano come altro, concorrono alla schizofrenia di questa società che dice di essere sensibile a questi temi ma li disattende quotidianamente nella pratica. Contemporaneamente il tabù del sesso viene largamente sfruttato da quando si è scoperta la correlazione tra desiderio sessuale e pulsione all'acquisto e il legame tra pratiche sessuali non usuali e malinteso concetto di rivoluzione e liberazione. Allo stesso tempo resta fermo lo stereotipo della donna come oggetto di piacere o soggetto domestico che anche quando è emancipata e lavora fuori casa sorveglia la sua abbronzatura, l'odore delle sue ascelle, i riflessi dei suoi capelli, la linea del reggiseno o il colore delle calze. Il mondo è quello che è, pieno di ogni bruttura, ma noi ci possiamo autoassolvere, tra virgolette, perché beviamo un prodotto che è sinonimo di libertà, perché vestiamo casual o perché facciamo sesso fuori dal coro. Facciamo pure quello che ci pare, perché quello che ci piace, proprio perché ci piace, è buono, ma lo è naturalmente per noi che lo facciamo e ci piace. Ma non parliamo, per favore, di libertà, di rivoluzione, di cambiamento della società. Questa configurazione sociale si caratterizza nella preeminenza progressiva della merce su ogni altro elemento e nella mercificazione di tutti i rapporti, compresi quelli sociali e affettivi, nella cultura che viene ridotta a mode che si susseguono, con l'apparire esibizionistico che prende il posto dell'autonomia individuale, nell'appiattimento della storia stessa sull'evento immediato e l'informazione istantanea, nella fuga dal conflitto e nella disaffezione dalla politica, nella strumentalizzazione delle lotte di liberazione e delle diversità. E allora, se la borghesia è in grado di appropriarsi di parole, contenuti, sogni che ci dovrebbero appartenere, sarebbe il caso che ci chiedessimo come possiamo porvi rimedio. Ciao!